Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, ma te sputo, che fai? Buongiorno, buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Ed eccoci qua come ogni giovedì mattina su Runtime Radio, www.runtimeradio, la vostra radio geek, la vostra web radio privata, tutta caruccia, tutta pettinata, che è ovviamente il nuovo slogan che da adesso per tutto il 2022 andrà in ovviamente in onda, in ogni trasmissione, ogni speaker sarà obbligato a dire Runtime Radio, la vostra web radio privata, tutta bella, tutta pettinata. Mi è venuto così adesso estemporaneo tra le gocce di sangue che si spingono per arrivare al mio cervello durante questa mattina. Infatti sto ancora bevendo il caffè, ma per introdurre questa puntata e anche insomma magari farci due chiacchiere e fare delle riflessioni insieme, non proprio come l'altra volta, perché insomma l'altra volta siamo andati proprio sul personale, diciamo così, qui andiamo proprio sul generale, vi do il benvenuto con questo brano qua. La pelle li cona bona bande la tina la pelle la pelle li cona. Vabbè, comunque questo è Johnny Clegg. Johnny Clegg and Savuga è stata una meteora in Italia, insomma intorno agli anni 90 questa canzone in particolare passava molto per le radio, io sono andato anche al concerto ed era fighissimo, stavamo sotto il teatro tenda, c'erano le gocce di sudore che mi cascavano addosso dal telo sopra, un concerto gremitissimo, molto bello, e alla fine vedere lui che era un rocker insomma sudafricano bianco con questa gigantesca band dei neri che ovviamente un po' suonavano, un po' cantavano e facevano tutti sti cori sotto e dal vivo erano potenti, erano veramente potenti, cioè proprio sto suono proprio vibrante, molto bello in quella frazione degli anni 90 in cui avuto quasi la sensazione che a un certo punto forse il mondo poteva cambiare. Ci abbiamo avuto questa sensazione qua, no? Ma è durata poco, veramente poco. E nel frattempo vi dico anche che invertiamo il proverbio cinese, quello: se tornate a casa picchiate vostra moglie, perché se voi non sapete il motivo lei sicuramente lo sa. Invertitela questa cosa, dato che oggi è il giorno contro la violenza sulle donne. La donna che incontrate, fatele una carezza e chiedetele scusa per tutte le volte insomma in cui probabilmente qualcuno ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, insomma. Comunque Johnny Clegg e Savuga erano fighi, ragazzi, erano veramente fighi, erano dei personaggi un po' così, poi sono spariti, ma in realtà poi ho visto che la discografia è continuata, c'è la roba del 2016, mi sono preso tutto, ho comprato tutto, giuro. Non è vero. Comunque detto questo, c'ho anche un annuncetto che che riguarda Alex Raccuglia e che è ovviamente legato a una sua iniziativa professionale che chiaramente riguarda poco e niente, anzi niente, Runtime Radio. Però sarebbe carino, dato che loro oggi fanno questa diretta live con un lavoro che hanno fatto molto importante dietro, Alex ci chiede se verso le 5:30, ricevendo ovviamente qui sulla chat diretta Runtime un link, noi possiamo comunque dare il nostro contributo partecipando alla diretta Facebook di questo evento, di cui non ho ulteriori particolari dettagli, ma credo che sia comunque legata a questioni mediche, comunque, cioè nel senso, comunque a un'associazione, a una società che comunque spinge un certo tipo di discorso, e questo a me fa anche veramente piacere. Quindi insomma, io penso che Runtime, come al solito e come in tutte le cose, risponderà pronto probabilmente, e questo insomma è un modo anche per contribuire, per darci una mano, per essere solidali anche con noi stessi. E poi niente, non mi pare che ci siano altri grossi annunci, a parte che questa sera ovviamente dalle 20 alle 20:30 c'è Walter con le orazioni della sera, e alle 21:30 ovviamente torneremo noi con Quando eravamo futuro, parleremo di serie televisive, sigle, cose insomma di cui abbiamo già parlato in tante altre occasioni. Questa è diciamo una delle versioni delle voci di Runtime Radio, quella di Buongiorno un cazzo, che diciamo alla fine si finisce per parlare più o meno un po' di tutti quanti gli stessi temi, come ha detto anche giustamente il buon Vargon nel mattino allora in podcast, ma lo si fa ognuno con la propria pluralità, col proprio pensiero, con il proprio modo di vedere le cose. E quindi niente, vi lascio con un piccolo brano e entriamo insomma nel vivo della questione, insomma, che è anche arrivato il momento. Then wanting again, caught it, forgotten, and tedious to get. You're playing hide and seek, I haven't seen you for weeks. Blowing hot and cold into a soft heart, watching a love life like some banker's chart. You think you have all the answers, none of my questions get heard. I wanna move on to where you can't reach me. I know I'm feeble, but hard medicine is free. I wanna move on to where you can't find me. Play my life in a different movie. Beaten and faster than beaten again. Between the sheets, I'll give as much as I can. You're a man of some prime position. You're burning out of my passion. Bleak horizon with my life in motion. Just one more chapter to go for auction. Today on top of your subject, I'm lying there in fear, naked. I wanna move on to where you can't reach me. I know I'm feeble, but hard medicine is free. I wanna move on to where you can't find me. Play my life in a different movie. Abandoned brains are making antibodies. When my heart still feels it needs your body. Is it lust, must, or just a cloud of dust with disgust? I adjust. Want it, then want it again. Caught it, forgotten, and tedious to get. You're playing hide and seek, I haven't seen you for weeks. Blowing hot and cold into a soft heart, watching a love life like some banker's chart. You think you have all the answers, none of my questions get hurt. I wanna move on to where you can't reach me. I know I'm feeble, but hard medicine's free. I wanna move on to where you can't find me. Play my life in a different movie. I wanna move on to where you can't reach me. I know I'm feeble, but hard medicine's free. I wanna different movie. I wanna move on to where you can't reach me. I know I feel the pardon soon is free. I wanna move on to where you can't find me. Move on. Questa è una canzone che ricorda, Michela ricorda, perché chiaramente fa parte del grande archivio di Gio Mendo, anche all'epoca in cui non ci provavamo neanche a fare cose diverse, anche se ogni tanto, insomma, qualche sgarata anche nel 2010, insomma, la facevamo, e senza poi troppo pentirci, con l'indignazione di tutti gli amici podcaster che dicevano: ah, ma quelli veri che fanno, e lo so, noi eravamo nati per stare sul cazzo alla gente, e questo è un po' il principio. Allora, ragazzi, sicuramente voi vi sarete resi conto, insomma, nella vostra esperienza, studiando storia, conoscendo un po' il mondo, che non esiste governo al mondo, a parte rarissime eccezioni, che guarda favorevolmente i cambiamenti, ma soprattutto guarda favorevolmente l'acquisizione dei diritti. I diritti, quelli fondamentali, quelli, insomma, che alla fine noi oggi consideriamo fondamentali, anzi consideriamo fondamentali, quelli che oggi noi diamo per scontato, cioè l'aver lottato per un determinato diritto ti fa comprendere la sua importanza, la sua utilità, perché l'averlo acquisito significa avere un reale cambiamento nella tua vita personale, nella vita collettiva che affronti, chiaramente. Averlo ereditato, diciamo, diventa una cosa acquisita, quindi non ci si rende neanche conto magari di che cosa è essere senza un determinato diritto fondamentale. E questo penso che sia una cosa abbastanza naturale, perché chiaramente se tu nasci con quella cosa acquisita, chiaramente la dai per scontata, è una cosa che c'è perché è naturale che ci sia. Questa è la grande vera trasformazione che alla fine ci sta ogni volta nelle società, perché è un po' come quando diciamo oggi noi stiamo discutendo su tutta questa gente straniera che distrugge la nostra cultura, roba del genere. È un problema che i ragazzini che oggi vanno a scuola non si pongono, perché per loro è naturale avere comunque il compagno arabo, il compagno di colore, il compagno giallo, il compagno verde, il compagno blu. Quindi alla fine comunque questo è un discorso che il vero cambiamento sta nella trasformazione generazionale piuttosto che nel nostro modo, ovviamente, di vedere il cambiamento. E comunque i diritti fondamentali, quei diritti per i quali sicuramente generazioni di persone hanno combattuto, alla fine sono stati acquisiti in certi casi forse anche di meno, in certi casi in maniera un po' più fittizia, però ogni governo vede sempre questo tipo di acquisizione in maniera sempre negativa è sistematico come tipo di discorso, perché chiaramente ogni parte, ogni blocco, ogni mattonella della società vede ovviamente se stesso come parte fondamentale, e chiaramente se la società, l'aspetto sociale, quindi magari il popolo, vede come punto fondamentale l'aver acquisito il diritto di sciopero, il diritto di espressione, il diritto di assembramento, il diritto di scelta in determinate cose, come vedete, insomma, che c'è stato anche col discorso sull'aborto, tantissime altre scelte che nella vita a molti possono considerare scriteriate, molti altri possono considerare giustificabili e giustificate. Dall'altra parte c'è il sistema ovviamente, più comunque il popolo acquisisce diritti, e minore è il controllo che ovviamente può fare verso ovviamente la società, no? Quindi ovviamente questi ovviamente che io stamattina ovviamente e quindi ovviamente, insomma, perché mica ci si può sempre svegliare svegli, stavo a far cascare la tazzina del caffè. Questo è un aspetto abbastanza importante, perché chiaramente nel gioco di forze contrapposte, chiaramente poi tante volte si crea anche un po' un equilibrio, no? Cioè questo è penso un aspetto veramente poco discutibile, e nei modi chiaramente che ci sono tra rivoluzione, restaurazione e controrivoluzione, alla fine si trova sempre un equilibrio, no, nella crescita di una società. E una società lotta ferocemente per l'estremizzazione di un diritto, poi dopo c'è magari un assestamento anche grazie alla reazione, no? Quindi a un tentativo di restaurazione, e se la restaurazione chiaramente non viene portata a termine, si trova comunque una mediazione, una sorta di ondata storica, no? Cioè, nel senso, comunque arriva la botta dell'onda, l'onda si ritira, ma poi piano piano, insomma, il tutto si riadagia in maniera abbastanza equilibrata. E i diritti sono una cosa, anche se noi appunto, è un po' come tante volte diciamo, voi state a Roma, ci avete delle cose bellissime, non ve ne rendete neanche conto, no? E questa è una cosa che mi ha fatto molto riflettere proprio nel periodo in cui andavo al concerto di Johnny Clegg, perché c'era un mio amico che mi diceva: ma perché non ci facciamo le passeggiate per Roma di notte, così, senza nessuna meta, e magari cerchiamo di riapprezzare cose che noi vediamo tutti i giorni e oramai diamo per scontato, non ce ne rendiamo più conto, no? Ed in effetti è stata un po' un'esplorazione, una scoperta, una cosa bellissima questa. E la stessa cosa dovremmo fare noi quotidianamente rispetto a quelli che sono i diritti che noi abbiamo acquisito durante questi 50 anni, magari, no? O ancora più a largo campo, no? Perché poi dopo alla fine si fa sempre, si acquisisce anche moralmente, diventa una cosa, una sorta di tatuaggio morale, il fatto che tu magari hai letto certe carte dei diritti e le hai fatte tue, le condividi perché magari anche tu in parte hai fatto il tuo, perché comunque qualcuno prima di te l'ha fatto, e senti ancora magari il peso e la responsabilità che magari poi piano piano si va perdendo, perché oggi sento tantissima gente che non gliene frega niente della parte dei diritti tra uomo e donna, ad esempio, no? Cioè, nel senso, ma donne stesse, quindi, ma perché? Perché non si rendono conto, perché in un momento in cui tu hai l'opportunità di scelta ti si aprono dei ventagli davanti, no? E quindi fa paura, cioè, nel senso, cazzo, devo scegliere io? No, io voglio il padrone. E poi questo che un po', diciamo, succede sempre ciclicamente nelle società, no? Le società arrivano a un punto di libertà, tra virgolette, potenzialmente voluto, potenzialmente, perché non lo è mai, e da quello ovviamente rifuggono, cioè, nel senso, cominciano a sorgere quelle voci che invece guardano indietro, no? Guardano, ma era meglio quando qualcuno decideva, perché... E questo mi ricorda sempre un mio amico che diceva che lui era fascista perché almeno durante il fascismo c'era Arduce, mangiava solo lui e non mangiavano tutti gli altri. Che mi ha sempre fatto ridere sta cosa, perché poi, cioè, nel senso, non vuol dire un cazzo, ma non solo, è anche falso, quindi, cioè, però comunque, vabbè. E i diritti, tra i diritti fondamentali ovviamente c'è il diritto di scelta. Il diritto di scelta è l'opportunità che tu hai in un determinato contesto di scegliere e determinare la tua vita all'interno di un contesto che ovviamente deve essere regolamentato, perché ovviamente quella che è la tua scelta non può essere e non deve essere lesiva nei confronti degli altri. E questo è un assunto basico proprio, cioè non penso che ci sia niente di sconvolgente, non ho rivelato, insomma, niente di illuminante. È un dato di fatto che noi tutti conosciamo e che comunque dovrebbe essere il punto di partenza dal quale ragionare su qualsiasi altra cosa. Poi dall'altra parte invece c'è il controllo. E il controllo è importante perché... Il controllo, alla fine, si basa su dei meccanismi antichi ma ancora validi, e su questo, alla fine, io mi rendo conto. E la domanda che vi faccio, che secondo me poi magari andiamo un attimo a divanare successivamente e poi così provo a leggere anche magari se avete scritto qualcosa, la domanda che vi faccio è: fino a che punto e per quali ragioni voi siete disposti a scendere a compromessi con i vostri diritti e i diritti degli altri, e con che spirito siete disposti ad accondiscendere alla cancellazione o alla moderazione di determinati diritti? Ecco, questa è una domanda che sono curioso di sapere che cosa ne esce fuori. vision. I hold the vision. I hold the vision. I see it. I see the shadows now receding. I see there's a light become the meadow. I hear the echoes of new life coming. A sound of water through an empty creek bed. I hold the vision. I hold the vision. I hold the vision. I see it. Vabbè, vedo che tre persone stanno scrivendo, poi dopo vi recupero, perché sapete che poi quando parlo non so leggere, cioè io ho questa cosa che è un po' come i rubinetti della doccia, o il doccione o il doccino, non ci so, capito? Le due modalità, quindi vedo insomma che stai scrivendo, poi dopo magari vi leggo. Comunque noi in questa radio in particolare facciamo gran parlare, no, del discorso dell'era digitale, dei social, del controllo mediatico, ci spiano, ci controllano, ci tracciano, ci manipolano, meno. E insomma, e alla fine vedo, insomma, c'è grande indignazione, no? Quanto è pericoloso questo tipo di situazione, no? Quanto in maniera, come posso dire, girando di intorno, diciamo, in maniera un po' stealth, praticamente ti stanno ancula, perché poi è un po' questo il discorso che facciamo tante volte, anche col buon Walter Vannini, col Data Nightmare, no? Che tra l'altro c'era la base sotto il brano, vabbè, sti cazzi, no, ragazzi, ma tenete così, tanto non è che era tutto sto gran brano. E col Data Nightmare, no, facciamo tantissimi discorsi di questo tipo, e in generale lo allarghiamo, perché quando ci indigniamo perché vediamo che succedono cose che magari la libertà, sti fascisti e via dicendo, no? Però poi dopo, alla fine, c'è un meccanismo, secondo me, che funziona sempre, che ha sempre funzionato nella storia, anche se in modalità molto molto molto diverse, che è la paura. La paura funziona sempre, raga. Cioè, mi ricordo l'ultima campagna elettorale di Bush, che praticamente era tutta completamente incentrata sulla paura del terrorismo. Cioè, l'America in quegli anni lì ha basato tutta la sua comunicazione sulla paura del fatto che c'è il terrorista accanto a te, vicino di casa, che è la stessa cosa del periodo dei russi. Vi ricordate che c'è stava la gente che guardava fuori dalla finestra perché vedeva attività comuniste dappertutto, no? E la paura è un elemento importante, perché smuove proprio un fondamento delle nostre reazioni emotive, no? Cioè, proprio va al profondo la paura, che è la paura non soltanto del diverso, della cosa strana, della cosa potenzialmente pericolosa, ma è la paura anche della morte, del non poter essere o autodeterminarsi, insomma, no? Quindi la paura funziona sempre, ragazzi. Scusate. E ovviamente in questa condizione, quale, dopo tanti tentativi, no? Perché insomma abbiamo visto in questi ultimi 30 anni quanti tentativi di levare, sfilare da sotto il sedere della gente praticamente molti dei nostri diritti, no? Dal governo Berlusconi, ma non soltanto, perché non è che i governi magari tra virgolette progressisti sono stati meglio, no? E in questi tentativi ovviamente poi un giorno, chiaramente per un fattore di destino, perché era inevitabile con la globalizzazione, arriva il coronavirus, arriva la pandemia, e quale occasione migliore di poter incominciare a mettere le mani all'interno di situazioni e contesti che ci portano praticamente a innescare un meccanismo. Cioè, non è che le leggi o i decreti sul coronavirus distruggono i nostri diritti, ma creano un precedente, creano una giustificazione, ci fanno scendere a compromessi con i nostri concetti morali, con i nostri presupposti. E nel momento in cui tu hai accettato questa volta questo precedente, lo farai anche la prossima volta, perché nel momento in cui hai posato le armi, hai smesso di vigilare e non ti sei reso conto che le soluzioni non dovevano essere quelle, ma dovevano essere altre, e non hai lottato per fare in modo che fossero quelle altre, hai comunque accettato la situazione. E se l'hai accettato questa volta, lo accetterai la prossima volta, e la prossima volta ancora. E qui si inizia a reinnescare un meccanismo basato sulla discriminazione, sulla cancellazione del tuo diritto di scelta nei confronti delle cose che tu mi dici che io posso scegliere. Perché la grande ipocrisia sta nel costruire questa grande ideologia della democrazia, che è uno dei più grossi falsi storici, soprattutto negli ultimi anni. E poi mi vieni a dire che perché tutti ci dovremmo avere paura dell'uomo nero, quei diritti sì, tu ce l'hai, ma non valgono. E se tu lo accetti adesso, lo accetterai anche la prossima volta, perché ogni crisi, se viene affrontata in questo modo, non farà nient'altro che peggiorare le cose. Mentre che le crisi si affrontano da Stato, da istituzione, da sovrastruttura, da chi governa una comunità. E chi governa una comunità si deve prendere le responsabilità del fatto che governa quella società, prendendo le giuste decisioni e non andando a toccare delle cose che diventano basilari, i fondamenti, i nostri diritti. Perché poi noi, presi da questa confusione tra chi si incazza per un motivo, tra chi è condizionato da tanta brutta informazione, incapacità di leggere un articolo, ignoranza e stupidità, alla fine scatta la guerra dei poveri. La guerra dei poveri è la società che combatte fra se stessa, contro se stessa, in favore di qualcuno che sopra non si è preso la propria responsabilità e non ha oggettivamente fatto niente per far sì che questo meccanismo non si innescasse. E di dietro, passando di dietro, mentre che voi litigate, io vi sfilo i vostri diritti, che è il diritto di scelta, che è il diritto d'opinione, che è il diritto di fare o non fare determinate cose, senza dare spiegazioni, senza istruire la popolazione, senza trovare il modo di far capire perché questa crisi va affrontata in una determinata maniera piuttosto che in un'altra. E questa è la cosa, secondo me, più grave, che noi oggi lo abbiamo accettato questo fatto. E non solo, siamo pure contenti, ah, sti stronzi devono pagare, ah, vaffanculo, tutti dentro casa, ah, ma magari si ammalano e muoiono. Certo, nessuno di noi ha detto oggettivamente niente del genere, ma lo sento in giro, lo sento, lo vedo nei commenti, nei social, lo vedo in giro. La gente oramai non è più senso critico, non è più in grado di affrontare nessun tipo di discussione, figuriamoci una discussione di questa entità, di questa importanza, di questa profondità etica e morale, che ci vede tutti colpevoli, tutti, perché lo stiamo accettando. Lo abbiamo accettato, regà. Stiamoci. I'm on the cusp of something new, something real, something true. The line is faint but visible. It's defined in action, infallible. Where choice denies eternal action. I fold myself into this detraction. Circle inward and I make it difficult. My meaning is lost in the roundabout. Fuck this or that, it's what is true when posers do what posers do. I know from past subjective pleasures, entertaining while feigning measures, faking when I feel less than, but breaking it when I can, breaking it when I can, breaking it when I can. Difference makes us, difference breaks us, sameness takes us and we forsake us. So bust and break and relive your own mistake and yearn to learn the real fakes. And yearn to learn the real fakes. Of my È così che finiscono le canzoni, capito? Così. De punto in bianco e senza motivo, tra l'altro, neanche la cito la canzone perché si è interrotta da sola. E infatti dura 1:16 la canzone. Ma poi così, secondo me il file c'ha qualche problema, chiaramente, inevitabilmente. Ma allora Francesco ci dice che solo le misure di riduzione hanno, se hanno un carattere temporaneo, possono... Allora, il problema, vabbè, poi giustamente Walter dice un po' quello che abbiamo fatto come assunto, come, presupposto, no, all'inizio, cioè comunque la nostra libertà di scelta deve essere comunque condizionata a quello che poi è il non essere lesivi nei confronti del resto delle persone, in particolare magari della maggioranza in generale e comunque anche dei più deboli. Sì, ma questo lo abbiamo assunto per principio. Il problema è che non devi arrivare a quella condizione, cioè non devi arrivare al fatto di mettere le persone nelle condizioni di fare delle scelte che possono essere lesive, perché quando ci sono questi scontri dal punto di vista etico, morale e anche pratico all'interno della società, la responsabilità è sempre del governo, è sempre delle sovrastrutture, è sempre colpa delle istituzioni che non fanno chiarezza e ovviamente giocano su quella chiarezza. Sul discorso del carattere temporaneità che dice Francesco, io sono... concettualmente posso anche comprenderlo come tipo di discorso, ma anche le leggi contro il terrorismo irlandese della Thatcher avevano un carattere temporaneo, eppure erano leggi speciali, e le leggi speciali all'interno del mondo hanno creato soltanto mostri. Sempre è stato così, perché un giorno gli inglesi a maggioranza hanno deciso che potevano determinare, a prescindere chi era un criminale e chi non era un criminale, che a prescindere poteva andare in galera. Era una situazione temporanea quella, sì, fino a che non li mettevano tutti in galera, era temporanea, poi dopo sarebbe stato ripristinato. Il maccartismo è la stessa cosa, un giorno nella grande democrazia americana si era deciso che chi puzzava di comunismo, puzzava, non è che era comunista, perché sai quanta gente è stata incarcerata, se non peggio, anche semplicemente perché il vicino di casa che dicevamo prima, guardando dalla finestra, ha visto che c'aveva una valigia rossa. La valigia rossa, sei comunista? Cioè, queste sono cose che nella storia sono sempre successe e non è che oggi ci scandalizziamo di questo fatto. Il problema non è il fatto se è giustificabile o non giustificabile fare un DDL o un Super Green Pass che determina cosa devi fare tu o cosa non devi fare quell'altro per spingere le altre persone a fare delle scelte che non vogliono fare, ma semplicemente che tu hai messo questa condizione perché ovviamente non sei in grado di prenderti la responsabilità del fatto di definire e decidere per loro e soprattutto spiegarglielo. Ma non soltanto, è comunque un modo per testare fino a che punto, ed ogni volta, questo lo vediamo dal punto di vista informatico, tutti quei discorsi che sono le lotte sui nostri diritti, sulla censura, su chi può dire cosa e come lo può dire, qual è il linguaggio che va utilizzato. Questo, cioè, è un modo per tastare fino a che punto questa società ha talmente dato per scontato determinate cose che oggi può serve per vedere appunto fino a che punto siamo in grado di abbassare le brache, abbassare le mani e accettare il fatto che queste condizioni possano verificarsi, e non soltanto, magari se si è verificata una volta la facciamo verificare due volte e magari anche con l'inculatina, perché insomma magari amplificando o estendendo questo tipo di concetti. Cioè, è chiaro che questo è un discorso molto aleatorio, però è un discorso che deve far riflettere, perché comunque noi ci dobbiamo pensare a questa cosa, non possiamo assolutamente non pensarci, non possiamo non tenere in considerazione la possibilità che sia così. Se noi lo ignoriamo, vuol dire che stiamo sottovalutando il problema, e il problema non va sottovalutato. Perché abbiamo faticato tanto per arrivare a un certo tipo di discorso, a un certo tipo di livello di libertà, perché oggi tutti quelli che parlano di libertà, ma tutta sta libertà arriva proprio dal fatto che c'è qualcuno che ci si è spaccato le unghie, se non peggio, insomma, no, per arrivare a questo tipo di risultato. Quindi dare per scontato e soprattutto accettare il fatto che il vero test del laboratorio oggi non è il vaccino, Il vero test del laboratorio è la sperimentazione di scelte politiche e vedere che impatto ci hanno sulla società. E se la società le accetta, è inevitabile che a quel punto abbiamo già perso. Abbiamo perso comunque, anche se siamo d'accordo, abbiamo perso perché l'abbiamo accettata questa cosa. Domani sarà un'altra cosa e quella cosa domani vi farà rodere il culo a voi. E quella cosa dopo domani vi farà rodere il culo a voi altri. Perché l'abbiamo accettato una volta, sarebbe un'ipocrisia non accettarlo ulteriormente per la prossima crisi, quando ci sarà la crisi degli uomini sorcio o la crisi di qualsiasi altra cosa. Insomma, ogni crisi a questo punto giustifica un'azione speciale, e le azioni speciali sono semplicemente dei palliativi, un modo per girare intorno alla tua incapacità di struttura, di sovrastruttura, di istituzione, di Stato, di affrontare quel tipo di problema. E quindi ovviamente ti servono strumenti che altrimenti non avresti, perché non sei capace di fare altrimenti. E questo rientra tutto nella semplificazione della politica, della banalizzazione, dell'incapacità di gestire e di governare come sapevano fa magari 30 anni fa, 35 anni fa, 40 anni fa, non per tornare sempre indietro, ma questo è andato di fatto. Cioè, non è che crisi come queste non abbiamo mai affrontate, ma non questa in particolare. Adesso vabbè, io faccio sempre il discorso del vaiolo, però anche crisi politiche importanti abbiamo affrontato in Italia, no? E non è che io mi ricordo sempre, durante il periodo del terrorismo, il periodo di Aldo Moro, a Roma non si poteva uscire la sera. Di fatto c'era un coprifuoco, non era ufficiale, ma di fatto era un coprifuoco. E quello era un modo di governare. Cioè, io ti dico che è meglio che te ne stai a casa, perché la notte noi stiamo a fare la caccia all'uomo. È meglio che te ne stai a casa. No, ti impongo di fare una determinata cosa piuttosto che un'altra. Era diverso, ragazzi, cioè era proprio una concezione diversa. Poi se tu uscivi era anche un po' a tuo rischio. Noi siamo stati fermati da, quando ero piccolo, sono stati fermati con mio padre da un posto del blocco dei Parà, dell'esercito, perché Roma era de facto militarizzata in quel periodo. Ed è stato spaventoso, perché questi con i mitra spianati, credo. Quindi era una situazione, ma quella è una situazione di crisi importante, come questa sicuramente, anzi qui probabilmente la gente muore, no? Però diciamocelo sinceramente, noi non possiamo prendere di avremmo dovuto affrontare le cose in maniera diversa, ma dato che non l'abbiamo fatto, allora fanculo, tu non sali sull'autobus, perché sta cosa mi puzza d'apartheid, mi puzza di discriminazione del nero americano durante i periodi del Ku Klux Klan, insomma, vabbè, avete capito, no? Vabbè, c'ho un problema, fa le trasmissioni la mattina con sto fatto che mi viene dato sì, quindi metto l'ultimo brano, vi leggo, così poi magari rispondiamo e poi andiamo verso la chiusura. My signs warn me I'm better off. Allora Explosive Air Candy, insomma, vabbè, give me a segno, dammi un segno, ma sai, questa l'avamo già messa tra l'altro, ma può essere, alla fine comunque noi c'eravamo sto banca dati così enorme. Giustamente Francesco mi dice che dovevo finire di leggere il suo messaggio, che era un po' scritto strano ma poi era molto lungo, e tu sai che questo sarà sempre un mio limite, e oggettivamente purtroppo dovete scrivere messaggi brevi, così che io poi nel tempo delle canzoni ho il tempo, insomma, di potermi leggere, sì, di potervi leggere. Allora Walter dice che le istituzioni mondiali possono aver colto al balzo il Covid per testare il campo sulle metodologie dell'alterazione della democrazia è verosimile, ma assunto che nessun paese al mondo, io su questa cosa non so, d'accordo, mi dispiace, neppure quelli più autarchici, ha reso il vaccino obbligatorio, dobbiamo tenercelo, ma siccome che lì insomma l'amici nostri vanno a mangiare a San Lorenzo, allora beh, bisogna andare tutti a mangiare a San Lorenzo. Questa cosa non la condivido, mi dispiace. Vedi che alla fine uno si è dovuto alzare, perché questa cosa poi tra l'altro aizza pure il sospetto, perché nessuno stato così in maniera unanime ha reso il vaccino obbligatorio. Però non voglio parlare dei vaccini, che tra l'altro tu dici il vaccino è un diritto, no, il vaccino non è un diritto, il vaccino è uno strumento col quale tu fai cose. Questo è un discorso, poi l'averlo o non averlo è un'opportunità, perché magari ci stanno popolazioni che non ce l'hanno il vaccino, e questo è un altro, ma comunque resta uno strumento. Questa è la mia opinione, però il fatto che nessuno poi alla fine, che unanimemente si è preso sta briga, questo rende la cosa ancora più sospetta, più curiosa, fino a che a un certo punto l'Austria giustamente dice mo mi avete rotto il cazzo, perché qua la situazione è seria, più che grave, e quindi rendi conto quanto giro di soldi ci stanno dietro a tutte queste cose, perché poi ma che cazzo gliene frega, raga, qui c'è sta gente che ha speso miliardi di dollari, di euro per comprare vaccini, e chissà con questi soldi come sono emorragiati a destra e a sinistra, perché famose capisse anche un po' di questo, invece di avere comunque una concezione dello Stato un po' vecchio stile, un po' tipo post guerra, dove comunque lo Stato era una presenza, era comunque una certezza da un certo punto di vista, e si prendeva le sue responsabilità. No, qui a un certo punto uno stamattina si è svegliato, ma io mi sa che mi avete rotto il cazzo, mi sa che fra un po' faccio che il vaccino è obbligatorio, ok? Quindi vuol dire che non è infattibile come cosa, è il fatto che si è deciso di non farlo, è il fatto che è stato deciso collettivamente. Secondo me questa cosa non c'ha un senso, cioè c'ha un senso sicuramente per loro, ma non giustifica il fatto che ci possano essere delle persone o degli stati che possano agire diversamente. Il problema è che appunto qua si è deciso proprio, cioè qui si sono proprio telefonati tutti, hanno detto oh regà, mi raccomando, perché capito, perché così famo i decreti speciali, vediamo che succede. Perché quando uno pensa al complottismo è più ragionevole pensare a una cosa del genere piuttosto che pensare al fatto che dentro al vaccino ci sta il microchip CPN cortato quantico 3G e fucking sì. E questo è il discorso, secondo me. Poi dopo ognuno può fare un po' quello che cazzo gli pare. Comunque Walter, tu scrivi una quantità di roba, io non lo sai, insomma, no? Anche volendo, anche con l'affetto, insomma, non gliela posso fare. Non c'entra un cazzo. Ma anche Freud c'aveva ragione. Vabbè. Bella Alex. E ragazzi, ne la faccio, cioè proprio sono arrivato al limite, penso che la prossima volta mi devo attrezzare con una tazza di acqua e miele, probabilmente devo durare delle cose, perché ultimamente non ce la faccio a fare quasi un'ora di trasmissione a parlare così, perché mi raschia la gola, insomma, quindi forse devo fare un vaccino per la voce. Vabbè ragazzi, vabbè. Allora, vi ringrazio a tutti, grazie per avermi ascoltato. Io spero che comunque tutto questo, e poi comunque vi leggo dopo, cioè dopo magari vi leggo, vi rispondo pure, insomma, in separata sede, secondo la mia idea, insomma, poi ovviamente ognuno cerca di ragionare con se stesso, con la propria coscienza e avere le proprie idee, e anche questo è parte dell'esistenza di un diritto che è fondamentale e che è giusto che sia, insomma, perché poi se tutti la dovessimo pensare in una determinata maniera o tutti la pensassimo nello stesso modo sarebbe anche un po' drammatico, diciamoci la verità, insomma. E, però l'importante è farsi delle domande e non fermarsi immediatamente alla prima reazione logica o emotiva che ci viene in mente. Ragioniamoci, fermiamoci ogni tanto quando esprimiamo giudizi verso tutto e tutti. Mettersi seduti un secondo fa, ma è giusto quello che stiamo a fare? È giusto il modo in cui lo stiamo a fare? Perché questa cosa ci renderà nemici, non ci renderà uniti per risolvere un problema. E ancora una volta, un fenomeno, un evento così importante che avrebbe potuto unificare diventa un ennesimo elemento di divisione, di separazione, di contrasto, di inimicizia, di guerra. In un'epoca in cui le guerre incominciano a lasciare quell'odore di polvere da sparo nell'aria che si incomincia a sentire, rumore dei cani che abbaiano la notte, persone che scappano, frontiere che si chiudono, porte che si sbarrano, nemici che si creano. E questo è il futuro che noi vogliamo costruire? Io spero di no. Non tanto per noi, perché a 50 anni penso che tutto sommato, tanto che me va, mi saranno rimasti una trentina d'anni di vita e me so aggiunto tanti anni, ma anche per i ragazzi, per quelli che vengono dopo, no? Cioè, noi stiamo facendo di tutto per mandare a picco tutta questa realtà, ed oggi si aggiunge anche il discorso del clima, che è un evento che è ancora superiore, perché mentre che nelle altre occasioni si andava a puttane ma poi in qualche maniera si ricostruiva, oggi non c'è più niente, cioè non c'è più niente per cui si possa dire forse dopo ricostruiremo, perché potrebbe essere troppo tardi. Detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ricordo questa sera dalle 20 alle 20.30 Walter Sbano con le orazioni della sera, e alle 21.30 con io, Roberto e Carlo, non ci sarà Davide questa sera, parleremo di TV, serie TV anni 70 con sigle, poi non so bene di che cosa parleremo, però è questo. Mentre domani mattina torna Leo Varghion dalle 7 alle 8 dove ci farà la recensione di una serie TV, un film, un libro, qualcosa che avrà giocato, e sabato dalle 8.30 alle 9.30 invece torniamo io e Michela con Disordinati Informati, col crossover book che insomma oramai vi fa compagnia tutte quante le volte durante l'arco della giornata. Ricordatevi che insomma esistono le programmazioni dei podcast storici, tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo ricominciato, diciamo, a trasmettere le prime storiche puntate di Trilogia Videoludica, che è sempre un piacere anche riascoltarle pure per me. E vi ricordo che ieri sera è andata in onda, e tra poco uscirà in podcast, la seconda puntata di Ludico Forum della seconda stagione, dove insomma ammetto che sono stato insultato da molte persone, giustamente anche da un certo punto di vista. Quindi vi ringrazio, questa è www.orantemeradio.it, se vi capita andate a cliccare sul tasto Anche Io, dove potete contribuire una tantum su PayPal o ricorrentemente su Patreon per sostenere le spese della nostra piattaforma, che come sempre è qui oramai da anni a farvi compagnia, ed ogni volta aggiunge sempre uno scalino in più, sempre più live, sempre più radio. Runtime Radio è sempre qui con voi. Ciao, buona giornata.